9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 6 settembre. Due punti allora al centro del tavolo quotidiano, nel senso che è pressoché inevitabile dal punto di vista politico tentare di analizzare, di approfondire, di esaminare le conseguenze, oltre che il contenuto dell'intervento dell'onorevole Fini, molto atteso al presidente della Camera ieri alla festa di Mirabello, tradizionale appuntamento annuale di questa forza politica, poi confluita nel PDL, insomma Alleanza Nazionale, prima del Movimento Sociale. E il presidente della Camera ha fatto un discorso di un'ottantina di minuti a braccio, come è bravo lui a fare, sviluppando argomenti con forza, incalzando. Però oltre a questo, sullo sfondo i tre giorni di Chernobyl, il punto della ripresa post-estiva del calendario economico nazionale, in cui la classe dirigente, banchieri, imprenditori, politici tentano di rimettere a fuoco le priorità. E quest'anno la priorità è una richiesta che viene con grande forza, grande convergenza, appunto da banchieri, imprenditori, economisti alla politica, a riprendere in mano le redini del cammino che ci può portare ancora, forse, nella serie A della crescita europea, cioè quella guidata dalla Germania, con molta produttività e molto rigore dei conti pubblici insieme. Altrimenti, se la politica resta lontana da questa priorità e non è in grado di concentrare quel poco di risorse pubbliche che è possibile finalizzare a questo scopo, ma soprattutto le molte regole che costano poco, che invece impediscono la produttività, il rigore, l'infrastruttura aggiuntiva, l'energia, ecco, allora vuol dire che poi la politica si rende responsabile di allontanarsi sempre di più dalle vere priorità del paese. Per carità, affronta le proprie priorità, che quelle sono di uno scontro di leadership molto aspro nel centrodestra, mi sembra di poterlo dire anche domani di Mirabello, ma la tre giorni di Chernobyl non dobbiamo dimenticarla, dà un po' il senso, un senso diverso di ciò che le forze dell'economia chiedono alla politica, alla maggioranza e al governo. Quindi questi due temi insieme, ma inevitabilmente cominciamo dall'intervento dell'onorevole Fini di ieri e sentiamone la conclusione, perché abbiamo scelto questo perché la conclusione, con questo tono cadenzato, con questo crescendo, con questi applausi, dà l'atmosfera di ieri di Mirabello e dice molto anche del tono, un tono di un leader che parla al suo popolo più che di un leader che ragiona finemente. Ieri era la ripresa di posizione, ripiantare una bandiera e dire questa gente non ce la levi, caro Presidente del Consiglio. Sentiamo la conclusione di ieri dell'onorevole Fini. Io non so quanto possa valere questa comunità. Certamente valgono le nostre idee ed è nel nome di quelle idee, di quella prospettiva, per un grande centrodestra autenticamente liberale, autenticamente nazionale, autenticamente riformatore, autenticamente sociale, autenticamente europeo, e nel nome di quelle idee e di quel popolo che va avanti l'impegno, la lotta, l'azione del futuro per la libertà. Grazie. Avete sentito come verso la fine la voce quasi era rotta, si è quasi spezzata al Presidente della Camera, perché anche il più consumato dei leader politici è capace di avere un rapporto pluridecennale col proprio popolo. Quando poi si tratta di giocarsi una carta decisiva come era quella ieri, di riaffermare la radice, il consenso, l'entusiasmo, e sente che intorno a sé cresce tutto questo, è ovvio che poi l'emozione, per quanto si possa essere freddi e consumati nelle tecniche oratorie, l'emozione si riaffaccia, perché l'onorevole Fini, dicono molti osservatori, rappresenta proprio questo radicamento di un'anima tradizionale di partito rispetto al movimento carismatico voluto tenacemente da Berlusconi. Io vi richiamo solo un paio di commenti che sono oggi sui quotidiani maggiori del paese e che danno un po' il segno di questa doppia lettura del discorso di Mirabello di ieri. La doppia lettura, il Corriere della Sera forse è quello che la sintetizza meglio, dice: Fini attacca ma offre un patto di legislatura, il PDL è morto però niente ribaltoni, sia lo scudo per Berlusconi. E il commento al Corriere della Sera dice: divorziati in casa. L'inizio del commento di Massimo Franco dice tutto: non si capisce se Gianfranco Fini abbia offerto a Silvio Berlusconi un patto di legislatura o aperto la campagna elettorale. L'impressione è che abbia fatto le due cose insieme, perché la scelta di rimanere nel centrodestra è netta e anche la disponibilità a dare a Berlusconi uno scudo contro qualche tentativo di scorciatoia giudiziaria, ma detta le proprie condizioni come terzo alleato oramai accanto al partito del Presidente del Consiglio e alla Lega di Umberto Roberto Bossi. Per questo le incognite sul futuro del governo e della legislatura rimangono intatte. Questo il commento di Massimo Franco. La Stampa invece preferisce la pars destruens, cioè il titolo è fini, il PDL non c'è più. E infatti dà rispetto al Corriere maggior rilievo poi le reazioni di Berlusconi, festival dell'ipocrisia, niente intese, verifica subito in Parlamento, e Bossi che dice situazione difficile, non durerà. E il commento di Marcello Sorgi, dell'ex direttore del quotidiano Diretto Oggi di Mario Calabresi, e la scelta di uscire dal recinto, leggiamo neanche qui le prime righe, diciamo la verità, è arduo credere che dopo il discorso di Fini, il patto di legislatura che il Presidente della Camera ha proposto ieri a Berlusconi, parlando ormai da leader del nuovo partito Futura Libertà, possa davvero realizzarsi, anche se poi si consente, Marcello Sorgi, e proseguo il ragionamento, dire che ci sarà Melina, insomma ci sarà una recita per la finta della verifica apposta per evitare che ci siano elezioni presto, ma insomma il nuovo partito c'è, il PDL non c'è più. Naturalmente Repubblica fa un titolo che guarda il futuro di Fini, dice Fini vado avanti, il PDL non c'è più, accusa il Premier ma niente ribaltoni, Bossi il governo non dura, e Massimo Giannini nel suo commento dice un'altra destra, forse è davvero finita un'epoca per l'anomala destra italiana nata dalle macerie del popolarismo democristiano e forgiata nel fuoco del populismo berlusconiano, perché con il manifesto di Mirabello, scrive Giannini, Gianfranco Fini varca un confine e politico ed entra in una terra incognita sulla quale può costruire finalmente un'altra destra compiutamente democratica e liberale, moderata e costituzionale nel solco delle grandi famiglie conservatrici europee. Per completezza vediamo anche il giornale Libero, cioè i due quotidiani che hanno martellato il presidente Fini intorno alla vicenda Monte Carlo Tulliani, e il titolo del giornale Lo strappo di Mirabello è Le infamie di Fini, tace sulla casa di Monte Carlo, insulta il giornale, dice che il PDL è morto ma non fonda un partito, accusa il Cavaliere di essere stalinista e attacca frontalmente il governo e i suoi ex colonnelli. Berlusconi, due punti, mi vuole soltanto distruggere, la Lega furente, voto più vicino. Commento di Alessandro Sallusti che in buona sostanza picchia molto sulle amnesie di Fini e respinge l'accusa di infamia che il Presidente della Camera ha rivolto al giornale, soprattutto accusandolo di prendere con i suoi familiari e invece che usare argomenti politici contro di lui. E anche il titolo di Libero è un titolo molto pesante, il grande ipocrita Maurizio Belpietro, niente di nuovo sotto il sole Mirabello, Gianfranco Fini ha detto esattamente ciò che avevamo previsto dicesse, ovvero un sacco di balle, scrive Belpietro, anziché parlare chiaro e tonto spiegando che lui da anni sognava di prendere il posto di Berlusconi e non ha mai creduto nel popolo della libertà, è stato costretto a entrarvi per evitare un fallimento elettorale, il presidente della Camera ha cercato di darsi un contegno da statista, aggiustando la storia di questi ultimi anni, riscrivendola di sana pianta e talora nascondendola là dove gli conveniva. Ora, tentiamo di capire meglio con due osservatori le parole di Fini di ieri, che trovate su tutti i giornali, così come vedete diversamente commentate, significano per il prossimo futuro. Ricordando che noi abbiamo sullo sfondo questa richiesta che viene dalle forze economiche, dall'impresa, dalle categorie, che ieri il presidente di Marcegaglia ha ribadito a Cernobbio facendo tre proposte. Primo, che l'intesa sulla crescita si aggiunga ai 5 punti di verifica della maggioranza. Seconda proposta, fare come la Germania anche in Costituzione, cioè non aspettare più che sia l'Europa a darci regole esterne, ma metterci in Costituzione un limite al deficit pubblico e un limite all'intangibilità dei redditi per il prelievo fiscale. Entrambi i paletti sono costituzionali in Germania, è per questo che la Germania ha meno spesa pubblica, meno pressione fiscale e può fare più rigore e più produttività. Terza richiesta ieri di Emma Marcegaglia a Cernobbio, organizzare subito una chiamata generale delle forze dell'impresa e sindacali a Palazzo Chigi da parte della politica, una volta ribadito che l'intesa per la crescita e per la produttività è l'applicazione delle nuove regole per fare 10, 100, 1000 pomigliano, per intenderci con uno slogan. Ecco, su questo sfondo invece la lettura del discorso del presidente Fini e le reazioni della Presidente del Consiglio della Lega e del PDL. E abbiamo come protagonisti per commentare il discorso dell'onorevole Fini Flavio Aperina, che è direttore del Secolo d'Italia e deputato di Futuro e Libertà. Buongiorno direttore. Buongiorno. Io Osvaldo Napoli, vicepresidente dei deputati del PDL. Buongiorno Napoli. Buongiorno a lei, a tutti voi. Posso chiedere, Napoli, intanto a lei che impressione ha fatto e qual è la lettura positiva, sforzandoci di darne la più costruttiva possibile, dell'intervento dell'onorevole Fini di ieri, al di là dell'orgoglio, della passione, del chiamare il proprio popolo di parlamentari come quelli che non lucrano e che non aspettano, non si mettono in fila per la conferma. È ovvio che ci sono molti elementi polemici. Io le chiedo di non soffermarsi soprattutto su quelli, ma di tentare di dare una lettura realisticamente costruttiva del futuro che immagina dopo l'intervento di Mirabello di ieri. Beh, è un discorso di vecchia politica, di vero populismo. Direi che in 15 anni non so Fini dove era in tutti questi 15 anni, quindi non vedo una prospettiva politica quando dice stiamo nel centrodestra, il resto però alla fine dice il PDL non esiste più. Può darsi che lui voglia fare il capo del PDL o quello che può essere il futuro. Direi poi una grande contraddizione di un presidente della Camera. Credo che dal dopoguerra ad oggi non vi sia stato un presidente della Camera che abbia fatto il capo corrente o il capo di un partito che faccia un discorso di una tale violenza politica contro il presidente del Consiglio, al di là che si chiami Berlusconi o si chiami Perino o si chiami Napoli, come ha fatto Fini. Quindi se devo guardarlo sotto l'aspetto positivo, dalla parte finiana e di Future Libertà, certamente ha fatto un discorso, come dire, ripeto, di grande populismo, e quindi ha chiamato a raduno i suoi fedeli, più che mai legittimo, chiarisco bene. Se devo invece discutere di un carisma o di una prospettiva politica, certamente vedo il peggio che poteva esserci. Flavia Perina, il peggio che poteva esserci, dice l'onorevole Napoli. È caduta la linea? È caduta la linea, non abbiamo più Flavia Perina in linea. Benissimo. Allora, continuiamo un secondo con Napoli. Lei pensa che a questo punto, quindi, se capisco bene, è solo un surplus per capire quali sono i tempi per andare alle elezioni? Ma non ci sono dubbi. Io vedo nell'operazione di Fini certamente un sistema. Cioè lui, lei ha detto bene quando il Corriere della Sera dice da una parte governo, dall'altra parte dice rottura. Lui cercherà di usare i due sistemi per consumare Berlusconi e per portarlo in modo particolare, insieme certamente ad altre forze, Rutelli, non so, Casini, sono sincero, ancora questo da vedere. In tutti i casi certamente farà in maniera tale di consumare Berlusconi e di portarlo alle elezioni di marzo-aprile, come dire, ormai prosciugato. Quindi il tentativo suo è certamente quello. Ho detto prima, la vecchia politica. Fini certamente ha usato Berlusconi quando Berlusconi allora lo tirò fuori dal movimento sociale, ha usato Berlusconi quando Alleanza Nazionale era ormai in forte discesa col Predellino. Fini ieri ha fatto un passaggio. In politica la gratitudine non può avere, come dire, eccetto il grazie immediato, non può avere una prospettiva. E l'ha detto bene, l'ha detto chiaro, ha ragione, lui non ha avuto la gratitudine di essere stato sdoganato in due occasioni e adesso, come dire, ha ritenuto di ritornare ad avere un partito che le consenta di poter avere una visibilità politica. Ma il problema grande è quello che lui ha detto su tutto, quasi come se lui non fosse da ministro degli esteri, quindi 5 anni al governo, quasi come se adesso da presidente della Camera l'avesse messo lì non so bene chi, e che quindi lui sta godendo di una posizione privilegiata in termine politico, in termine estremamente redditizio, di ritorno d'immagine, usando quello per fare un partito che a questo punto c'è. Allora, Perina, ha sentito Napoli dà un'interpretazione per la quale, insomma, c'è poco spazio per un'intesa vera. È ovvio che oramai a questo punto la frattura c'è, il partito nuovo c'è, si tratta semplicemente di prendere tempo per rosolare meglio Berlusconi e poi andare al voto da parte dell'onorevole Fini, da parte vostra, tentando di creare nuovi equilibri, accrescendo il più possibile, insomma, le difficoltà per l'ex PDL. Dice Napoli, non si pronunciano giudizi ispirati a una tale durezza, non solo personale su Berlusconi, ma su tutta la storia del PDL, sui valori perseguiti, sui camerieri deputati, sugli scudi immunitari per il Presidente del Consiglio, se davvero si pensa a un'intesa. Un'intesa in queste condizioni è una questione di stile, di linguaggio, cioè non è più possibile, e allora bisogna prenderne atto. Che pensa Perina? Ma Fini oggettivamente ha aperto la competizione all'interno del centrodestra, ha aperto la competizione nel nome di un'altra destra possibile, una destra che rispetti quelle che erano le promesse un anno e mezzo fa del PDL, che aveva fatto agli italiani la promessa di un grande partito liberale di massa, di un partito appunto capace di affrontare i temi dello sviluppo, della ripresa, della modernizzazione del paese, promesse che in questo anno e mezzo non sono state mantenute, anzi noi abbiamo assistito a una sorta di regressione del PDL verso, ecco, quello che Fini, e la definizione ci sta tutta, ha definito una Forza Italia allargata. Un partito dove l'unica linea del partito è cantare, meno male che Silvio c'è, e di tutto il resto si occupa il leader all'insegna del Gepensimi. Non era l'idea che avevamo fondando il PDL, non è l'idea che serve al paese, non è l'idea in base alla quale gli italiani ci hanno dato il voto, perché è importante, ecco, uno dei passaggi meno indagati, perché ovvio i riflettori poi si accendono su tutti quelli che sono i toni politici, proprio sul tema dello sviluppo che citava prima Giannino, ha fatto delle chiose, delle sottolineature importanti Gianfranco Fini in questo discorso, e ha detto sicuramente l'Italia ha garantito la solidità, la stabilità dei conti, ma siamo attenti, nei 5 punti manca un punto che riguardi questo tema, manca un punto che si rivolga alle speranze dei giovani, manca un punto che si rivolga a quello che è il futuro del nostro tessuto produttivo, economico, e non si può risolvere tutto quanto, ecco, tipo di spettacoli che abbiamo visto in occasione ad esempio della visita di Gheddafi, perché per carità là si possono fare buoni affari, ma non si fanno progetti a lunga distanza per un paese che sotto tanti profili è stremato. Quindi questo, secondo me, su questi temi Fini apre una competizione interna al PDL, si propone come un leader politico capace di realizzare quello che era stato il grande progetto, il grande azzardo del PDL, e quindi sicuramente in questa direzione è difficile per me immaginare quello che normalmente si chiama una ricucitura. È più facile immaginare che Silvio Berlusconi si faccia una ragione di questo nuovo assetto, modo di trovare un compromesso per mandare avanti la legislatura, perché anche su, diciamocelo chiaro, sicuramente non c'è una convenienza di tante forze politiche, uno strappo immediato, tutti hanno un po' anche la mediatica di Silvio Berlusconi, ma l'ultima volta che Forza Italia si è presentata da sola alle elezioni ha preso il 23,7%. È risultata secondo partito italiano dopo il PD. Io credo che anche Silvio Berlusconi, dopo aver goduto di una maggioranza così ampia, così potenzialmente in grado di veramente di cambiare questo paese, sarà difficile per lui presentarsi agli elettori spiegando perché non l'ha usata. Perché l'ha usata per aprire crisi interne anziché per rispettare le promesse che erano state fatte al corpo elettorale. Quindi anche su questo tema, sul voto, io credo che Berlusconi stia facendo una riflessione. Poi consentitemi una piccolissima chiosa ho sentito soltanto la fine io dell'intervento di Napoli, dello sdoganamento, la gratitudine, eccetera. Gianfranco Fini non è che, insomma, Michela Brambilla che deve gratitudine al Premier perché è stata presa da una condizione di piccola o media imprenditrice. Gianfranco Fini è il leader di un grande partito che ha fatto una scelta importante, una scelta di cofondazione importante, e che un mese e qualche giorno fa è stato cacciato fuori da quel partito dopo un'ora e mezza di dibattito e senza avere modo di rappresentare le sue ragioni. No? E qua la categoria della gratitudine è completamente fuori da questo tipo di dibattito. Può riguardare altre persone, può riguardare altri che da zero sono diventati tutti, non certo il leader di una forza politica che è radicata da oltre 50 anni in Italia. Io ringrazio l'onorevole Napoli, l'onorevole Perina. Io personalmente sì, penso che siamo a un passaggio questa volta fondamentale dopo 16 anni di discesa in campo di Berlusconi. Non ho mai creduto che l'iniziativa dell'onorevole Fini si potesse liquidare in termini personali, non l'ho mai creduto, per questo sono sempre stato scettico sui toni usati da colleghi come Giornale e Libero in questi mesi, anche se avrei preferito che l'onorevole Fini rispondesse alle loro domande, devo dire la verità. Detto questo, Io penso che a chi guida il centrodestra, nelle sue diverse componenti, sia molto chiaro quello che c'è nei sondaggi, uno stato d'animo dell'opinione pubblica, soprattutto del nord, ma non solo nel nord, perché poi i voti si prendono nel nord e nel sud di centrodestra. C'è una vastissima percentuale di italiani che dall'altra parte non vedono qualche cosa che li faccia ardere di speranza, visto come sono formati un giudizio su centrosinistra, tassaiolo e diviso, ma però sono stufi di vedere i temi sui quali si prendono i voti in campagna elettorale regolarmente non tradotti in cose concrete nelle attività di governo, a cominciare dalle poche tasse, dallo Stato più snello, da più attenzione alle forze dell'economia, da più produttività, più crescita. C'era una svolta nucleare da prendere che da un anno sta sul binario e ieri è stato ricordato a tutti quanti miliardi di euro può far risparmiare al paese, la promessa dello sblocco delle infrastrutture e così via. Io credo che a chi guida il centrodestra questa cosa sia chiara: c'è una battaglia che si è aperta. Non so se sia portata di mano davvero un centrodestra liberale, europeo, non lo so, francamente non lo so, perché penso che ora si apre una contesa in cui ciascuno metterà le sue bandierine. Io spero che il popolo del centrodestra però sia inesorabile nel giudicare chi ha promesso e non ha mantenuto. Ecco, questa è la mia opinione. Eccoci, cari ascoltatori, dopo la prima metà dedicata all'analisi del discorso del Presidente della Camera ieri a Mirabello, ci spostiamo in una seconda metà in cui invece facciamo un po' il punto di ciò che le forze dell'economia, dell'impresa, dell'Accademia, insomma, hanno fatto ieri nei giorni scorsi a Cernobbio, la tradizionale occasione di ripresa post-estiva. Però iniziamo a sentire come la pensate voi, che opinione avete avuto del discorso di Fini di ieri con un po' di telefonate. Cominciamo con Luca che ci chiama da Lecco. Ecco, prego Luca. Grazie, buongiorno. Volevo dire, Fini ha fatto un passo molto coraggioso e importante, perché finalmente ha capito che il governo Berlusconi, o meglio il Presidente del Consiglio, ha finito il suo imperato durato 16 anni. Ci stava portando verso un imperialismo non stalinista, ma hitleriano. E la addirittura. Sì, se fosse andata avanti così saremmo finiti appunto a questo tipo di situazione. Cito soltanto il decreto Alfano che voleva tutto modificarlo per risolvere i suoi problemi, i suoi problemi giudiziari, ma avrebbe anche permesso a lui stesso di non fare più, di non essere più contrastato da nessun tribunale, e quindi avrebbe messo il nodo alla gola a tutti gli italiani e alla democrazia. Va bene Luca, è chiaro, lei è portatore di una visione radicale per cui Berlusconi è il male assoluto. Capisco che per l'onorevole Fini non possa che essere un salvatore hitleriano, insomma, non lo so. Io che pure sono molto critico nei confronti dei difetti di stile innanzitutto e del personalismo degli affari Berlusconi, detto questo, Hitler è un'altra cosa, insomma. Marco da Napoli, sentiamo Marco, che la pensa? Buongiorno signor dottor Giannino. Io penso che Fini, facendo un discorso demagogico e propagandistico, un riassunto delle puntate di quest'estate, ha scontentato un po' tutti, ha deluso sia la sinistra che la destra, perché non ha creato un nuovo partito, non è uscito dal Partito della Libertà, praticamente si è limitato a fare del narcisismo dialettico in perfetto stile oratorio prima Repubblica. Io sono contrario alle elezioni anticipate, che sarebbero una iattura per il nostro paese, soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti, però sarei molto curioso di vedere l'entità del prefisso telefonico su quale si fisserebbe il gradimento degli elettori per Fini. Nel senso che le dice sarebbe molto basso. Scomparirebbe dalla scena politica italiana. È stato un bel appeso per i fondelli tutti quanti, soprattutto ieri, dove tanta gente aspettava di sapere qualcosa che lui non ha detto, menando il can per l'aia su tutti gli argomenti che ha toccato, come se negli ultimi 16 anni fosse stato su Marte o su un altro pianeta, non nel Popolo della Libertà o nel Forza Italia. Bene, grazie. Sentiamo Osvaldo dalla provincia di Treviso invece. Salve Giannino, salve i vostri ospiti. Senti, io sono assolutamente d'accordo col precedente ascoltatore. Quello che ha detto ieri Fini sono solite cose che si dicono, trite e ritrite, il bel libro dei sogni. doveva fare qualcosa di più, ma quello che veramente mi ha irritato ieri è quella sua solita area di supponenza. Lui purtroppo ha fatto politica contro lo schieramento del governo dallo scranno di Presidente della Camera, e io sono un elettore di destra, io rimpianto veramente Bertinotti, che è stato un signore nell'accezione più larga della parola. Quindi ieri veramente è stata una cosa proprio da primissima Repubblica, e non ha detto fondamentalmente niente, ha detto solo semplicemente che aspetterà quello che dirà Berlusconi, dopodiché partirà con un nuovo partito, perché tradotto in soldoni è questa la faccenda. Al di là del fatto del problema personale, che comunque lui ha semplicemente scioccamente offeso Feltri senza dare risposta, è questo che a me ha dato molto fastidio, quella arroganza, quella supponenza che ha ancora una volta messo in piazza. E con tutta questa gente, quello che a me ha oltretutto dato fastidio, e vedere tutta questa gente osannante, compreso Luca Barbareschi, che mi è veramente sceso dalla considerazione, ma nessuno si fa delle domande su quello che lui ha combinato, perché lui nel suo partito, nell'ambito di Alleanza Nazionale prima, poi e prima come MSI, ha fatto né più né meno quello che ha fatto Berlusconi, buttando fuori la gente, né più né meno. E anche questo che richiama Osvaldo, cioè sullo stile leaderisco carismatico della gestione dei fini, non è un'opinione, ma è abbastanza un fatto, secondo me. Tranne il fatto che naturalmente chi è carismatico lo è a casa propria, e quando poi si costruiscono case più grandi, il problema è chi è il carisma più grande del carismatico numero uno, e questo in definitiva il vero problema da sempre, con sopra, sotto, a fianco, a destra e a sinistra di Silvio Berlusconi. Questo è il punto, perché quando un sistema politico diventa carismatico, bisogna che il carisma sia riconosciuto e condiviso, altrimenti sono guerre con Giulio di Palazzo. Da che esiste un sistema carismatico, questo è la sua caratteristica negativa. Quella fondamentale è di essere un sistema, diciamo, dalle vie decisorie più brevi e meno complicate per quello che riguarda i processi decisionali complessi, il che significa a volte anche decisioni molto discutibili. Però quando il carisma non è condiviso, ecco che le frazioni e le guerre sussistono. Detto questo, è chiaro che di fronte alla serietà, alla profondità, all'articolazione dei temi, agli 8 punti di Giulio Tremonti illustrati nell'intervista a Repubblica 2 giorni fa e poi ribaditi nel suo intervento a Cernobbio, alle 3 proposte di Emma Marcegaglia a Cernobbio che ho ricordato, all'intervento di Axel Weber che ha detto all'Italia vi spiego come funzionano i grandi contratti che 4-5 anni fa, 6 anni fa hanno riaperto il solco della produttività ai grandi gruppi tedeschi, Volkswagen, Siemens, eccetera, coinvolgendo i dipendenti e i sindacati in una scelta a favore della produttività, oppure di Mario Monti che ha indicato la via di una crescita anche della domanda interna europea attraverso più concorrenza, e ancora la prospettiva delle nuove regole europee, che dell'Ecofin proprio che da questa settimana segna questa nuova cornice di coordinamento delle politiche economiche europee, perché da gennaio ad aprile di ogni anno l'Ecofin diventerà il coordinatore di 2 documenti che ogni paese presenterà, un documento per gli effetti di stabilizzazione delle entrate e delle spese nel breve periodo e i loro effetti sulla congiuntura economica, e un secondo documento che è invece il piano di riforme economiche di respiro più lungo, di effetto strutturale sull'aumento della crescita della produttività, che ogni paese presenta tra guardate al 2020. Ecco, questo nuovo quadro di regole di cui a Cernobbio si è fatto il punto. Allora, la serietà delle richieste di Cernobbio da una parte, dall'altra lo scontro dei leader, e come si vede il tono di oggi prevalente, sia che voi siate per Fini sia per Berlusconi, è quello di dire lotta dura senza paura, al voto si andrà, e temo che a quel punto le cose serie di cui si è parlato a Cernobbio ne possano subire nuova aggiuntiva e disattenzione, almeno questa è la mia impressione. Sentiamo Orazio Carabini, editorialista del Sole 24 Ore, che in questi giorni ha anche scritto proprio dell'editoriale Sole 24 Ore proprio rivolto a Cernobbio, tirando le fila di tutto il dibattito che c'è stato lì. Io lo ringrazio, grazie Orazio Carabini, buongiorno. Buongiorno a voi. L'impressione dei 3 giorni di Cernobbio era stata, almeno il mio giudizio, non so come la pensa lei, però di un certo riannodarsi di fili dopo qualche mese di perplessità su cosa poteva fare l'Italia, o no? Beh, dunque sì, si è fatto anche molta filosofia, perché ovviamente in questi consessi si tende a volare alto. Però obiettivamente c'è stato un ritorno dell'accento sulla crescita che va salutato con molta soddisfazione. Però ecco, Tremonti per esempio, al di là della conferenza stampa con Bertinotti, però esplicitamente ha detto: qui bisogna che rifacciamo la squadra della manovra estiva, cioè compresi i sindacati eccetera eccetera, e ha rivolto un appello all'opposizione. Bersani non l'ha fatto cadere, voglio dire, un'atmosfera un pochino diversa rispetto a quella di cui abbiamo parlato in questa prima metà. Assolutamente, sono d'accordo con te, con lei. Oh, e invece in merito a questa polemica che poi è nata ieri, cioè sui giornali di oggi, su fare come la Germania, cioè Tremonti ieri, molti hanno interpretato, si riferisse al governatore Draghi che da Seul aveva detto fare come la Germania, anche Emma Marcegaglia ha detto bisogna fare come la Germania, addirittura metterci in Costituzione i paletti alle entrate e alla spesa pubblica. Poi ieri Tremonti se ne esce dicendo, beh, insomma è un'espressione un po' infantile. Cosa voleva dire secondo lei? Ma io penso che copiare pedissequamente un modello sia impossibile, cioè ogni paese ha le sue caratteristiche, quindi penso anche che interpretare l'appello di Draghi come appunto la proposta di importare tout court il modello tedesco sia abbastanza sbagliato. Quello di Draghi era un appello alla concretezza, facciamo come la Germania, nel senso che loro quando dicono facciamo una cosa la fanno e tutti si mobilitano per raggiungere dei risultati, poi ciascuno utilizza gli strumenti che ha, anche perché le caratteristiche del tessuto produttivo, industriale e sociale della Germania sono molto diverse da quelle italiane. Non è vero che siamo, sì è vero che siamo loro i primi, noi i secondi in termini di capacità manifatturiera, però loro hanno dei grandi gruppi industriali integrati, noi abbiamo, come sappiamo bene, milioni di microimprese che sostengono l'economia, quindi come si fa a dire copiamo la Germania? Se si copiamo la Germania nella concretezza, quello sì è l'appello che va fatto. Una degli altri temi ricorrenti in questi giorni, visto che Berlusconi dopo l'intervento del Capo dello Stato ha ribadito che questa settimana farà il nome del nuovo ministro, il successore di Claudio Scajola al Ministero dello Sviluppo Economico, è stato quello della, insomma, se ci serve davvero o meno questo ministro. Ha scritto Francesco Giavazzi su Corriere della Sera: tutto sommato ne possiamo fare a meno, perché la via indicata anche da Mario Monti è quella che qui serve più concorrenza, il vero ministro qua è il presidente dell'autorità antitrust, noi non possiamo fare politiche di sostegno diretto alla domanda, perché la finanza pubblica noi dobbiamo tenerla su un sentiero molto stretto, grazie a Tremonti l'abbiamo fatto ma dovremo continuare a farlo, e quindi la domanda interna si fa soprattutto nell'ambito dei servizi della pubblica amministrazione, con la concorrenza che manca perché non è stata esposta ai morsi del mercato internazionale, che invece appunto morde, sì è vero, la parte manifatturiera, ma è anche quella che poi l'ha spinta a fare più valore aggiunto e poi abbattersi anche insospettabilmente bene in questa crisi. Su questa polemica del ci serve davvero il ministro, lei come la pensa, Carabini? Non nei termini in cui l'ha inquadrata Giavazzi, nel senso che è vero, ci serve veramente se per 4 mesi possiamo farne a meno, perché con tutto il rispetto del Presidente del Consiglio, quello che ha scritto nella sua nota di venerdì, beh, l'iniziativa politica del Ministero dello Sviluppo in questi mesi non si è sentita. Sarà anche vero che lui ha fatto tutto quello che ha fatto, ma se anche ha fatto quello non basta. Allora il problema è a che cosa serve il Ministero dello Sviluppo. Sì, serve a realizzare, a tradurre in proposte politiche quelle osservazioni che puntualmente fa l'antitrust, quello va bene, è una parte importante del suo lavoro, ma come abbiamo cercato di spiegare nei giorni scorsi sul nostro giornale, serve anche un personaggio che sia protagonista, nel senso che sia in grado di mobilitare, di facilitare l'incontro delle risorse pubbliche e private per dar vita, per realizzare dei progetti che altrimenti o restano sulla carta o proprio non si ha nemmeno il coraggio di portare all'attenzione dell'opinione pubblica. E qui da un lato abbiamo l'esempio dell'energia nucleare, che è stata disegnata nelle sue grandi linee ma procede con grande ritardo, e il fatto che non ci sia stato per 4 mesi il Ministro dello Sviluppo certo ha contribuito. Ma c'è un altro problema, per esempio la realizzazione di una rete a banda larga diffusa su tutto il territorio, continua a essere mascherata con una mancetta di 800 milioni che il governo dà alle aziende di telecomunicazioni. Non è quello che serve all'Italia. All'Italia serve la realizzazione di una rete super veloce a banda larga diffusa in tutto il territorio, che costa 15 milioni e ci vuole una persona in grado di mettere insieme risorse pubbliche e private per realizzare un progetto di queste dimensioni. 15 miliardi, ovviamente. Eccoci qui tornati in studio dopo l'intervento del Presidente della Camera Mirabello, che va avanti nella rottura, anche se non ne tira le conseguenze, ma insomma i più dei toni di commento abbiamo sentito che non sono certo concilianti e non scommettono su un proseguo di legislatura con un governo davvero efficace. E però anche la 3 giorni di Cernobbio, che rifà il punto, la ripresa estiva di ciò che le forze dell'economia, dell'impresa e della banca chiedono alla politica, e non so quanto ne rimarranno soddisfatte. Sentiamo ancora qualche telefonata degli ascoltatori, cominciamo con Giovanni che ci chiama dalla provincia di Ancona. Giovanni, come la pensa? Finirà entusiasmata o delusa? Sì, buongiorno dottor Giannini. Allora, io volevo intervenire da piccolo imprenditore, perché il discorso della politica sta diventando veramente pesante, noioso, una cosa che è distante da noi, dalle nostre problematiche. Sì. Le dico questo: quello che manca, ma è che è una cosa veramente importante, è una programmazione dell'economia. Cioè, noi dobbiamo sapere fra 2 anni cosa dobbiamo fare. Noi dobbiamo sapere, per tenere in piedi un'azienda, cosa va a accadere nell'ambito della situazione economica da qui a 2 anni, a 3 anni, 5 anni. Io voglio stabilità economica, quindi devo avere un governo che in qualche modo mi dà indirizzi precisi di riferimento. Con le banche, voi parlate delle banche, ma le banche, sapete come stanno i veri discorsi con le banche? Voi fate tante parole, però di fatti qua nessuno ne fa. Perché noi la stretta c'è ancora. Anzi, allora, ascolti, le banche devono ripatrimonializzare e hanno sofferenze in aumento. Allora, le banche sono delle vere associazioni a delinquere. Ascolti, glielo dice uno che ci sta dentro dalla mattina alla sera. Le banche sono associazioni a delinquere legalmente riconosciute. Giovanni, questo, ascolti, dottor Giannino, siamo chiari. Ci vuole la magistratura che ci mette mano in queste cose per vedere chiaro cosa succede con le banche. Giovanni, però noi stavamo raccogliendo opinioni su Fini Berlusconi. Se mi fa una cosa sulle banche, tanto sa che di trasmissione sulle banche e molti schiaffi li prendo su questo, e quindi su questo la prometto che sulle banche la riandiamo ad ascoltare, perché siamo innanzitutto la radio che dà orecchio all'impresa piccola del territorio, artigiani e commercianti. Lo abbiamo fatto in tutti gli anni di crisi e continueremo a farlo. Quindi Giovanni, intanto giudizio di lontananza dalla politica, da questa politica rispetto alle attese delle imprese. Io su questo concordo molto. Mario da Trento, sentiamo Mario da Trento come la pensa. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno. Spero che mi capisca, perché sì, sono influenzato. Si preoccupi, la sentiamo bene, vada. Ah, bene. Allora guardi, per quanto riguarda Fini ieri, sono veramente rimasto deluso, perché ho visto le contraddizioni nel suo discorso. L'onorevole Fini, praticamente, da quando è entrato nel PDL, che ha costruito il PDL, dopo 2 o 3 mesi ha incominciato a criticare tutto quello che faceva Berlusconi, addirittura adoperando le medesime frasi che adoperavano le sinistre. Ora, dico io, sei presidente della Camera, praticamente, no? Cosa ci vuole a chiamare Berlusconi in privato, in Camera Caritas, e dire: senti, ma guarda, non vedi che stai sbagliando? Dialogare, praticamente. Mario, il problema è che quando ci si sente leader alternativi non è la costruzione di una cosa condivisa al punto. Poi lei ha sentito più volte l'onorevole Berlusconi, dopo l'attacco nella direzione famosa, il ditino sotto che fai mi cacci, l'onorevole Berlusconi, dire del resto non è una sorpresa, perché l'onorevole Fini, che ci copriva di sarcasmo dopo il discorso del predellino, poi solo per ragioni elettorali ha detto sì in due minuti, e però non è mai stato d'accordo. Temo che questa lettura abbia molto di vero, a dire la verità. Marco da Siena, come la pensa Marco? Sì, buongiorno dottor Giannino. Dica. Io penso che credo che la politica sia una cosa che debba esserci in una nazione, debba essere considerata come una cosa seria. Sì. Però bisogna anche un pochino, diciamo così, attrezzarsi, no? Sì. Per capirlo, perché uno non può fare partitica e definirla politica. Noi, secondo me, da tanti anni siamo stati, diciamo così, disabituati a sentire, a capire cosa significa la politica. Insomma, lo stile di Berlusconi, l'anomalia di Berlusconi, è chiaro che allontana da una politica, diciamo, con concezione alta e statista. È un mix che però parla alla pancia ed è capace di smuovere molti consensi. Marco. Berlusconi, diciamo, è un incidente, no? È un incidente di 16 anni nella storia italiana, non è un incidente, è un tratto che diventa fondativo, sì. Ma sicuramente, sicuramente, però io non darei la colpa soltanto a Berlusconi, ecco. Perché viviamo in un mondo nel quale siamo allontanati da tante altre cose. E in definitiva, quindi, secondo lei, Fini però invece ci riavvicina a una politica alta, se capisco bene? Sì, ecco. Secondo me sì, glielo dice uno che ha sempre votato da un'altra parte. Grazie, grazie anche a lei. Domanda finale per Orazio Carabini. L'impressione che ha, insomma, è chiaro che qui la prevalenza, con qualunque sia il punto di vista politico, è che si va a una lunga e travagliata, ma rottura, non composizione, non di un governo efficace. Dovesse formulare una impressione, un'opinione sull'impatto che questo potrebbe avere sulla crescita italiana, sull'Italia in Europa. Tremonti sottolinea molto questo punto. Eravamo arrivati, dice, a un punto in cui nell'Ecofin potevamo costruire un'alleanza per fare più domanda interna, come dice Monti e come dice Delors. Certo, se siamo più deboli sarà un po' difficile. Lei che pensa? Io penso che, insomma, lo scenario che si delinea è questo qua, è quello di un lento logoramento che avrà uno sbocco verosimilmente traumatico nel giro di qualche mese. Quindi questo per l'economia è quanto di peggiore potesse delinearsi. Ora è vero che Fini nel suo discorso ha fatto accenni all'economia in una chiave molto spesso condivisibile, quindi se la maggioranza traesse spunto da questo per rinvigorirsi sarebbe anche bene, ma non si vedono le condizioni politiche perché questo accada. Eh sì, penso che oggi il tono dello scetticismo, questo di Carabini, conclusivo, sia quello giusto, anche secondo me. Io penso che molti elettori del centrodestra inizieranno a grattarsi la testa. Se qualcuno è disposto a fare un partito in cui meno Stato e meno tasse si prendono sul serio, questo potrebbe essere il momento giusto, perché soprattutto nel Nord, tra molti elettori che si grattano la testa se veramente c'è solo la Lega da votare, e altri che dicono ma Fini, Berlusconi, ne ho un po' le tasche piene, terza forza, non lo so, l'impegno a uno Stato più leggero, più efficiente, a liberare le mani a chi sa fare economia ma c'ha troppi vincoli amministrativi e fiscali, questa io credo potrebbe essere una anche sorpresa dei prossimi mesi. Chi si fa i conti solo tra i due contendenti del centrodestra può essere che sbagli i propri conti. Appuntamento a domani, grazie in regia Carmelo Lauricella, redazione Alessandro Marco Tulli, grazie naturalmente Orazio Carabini, onorevole Napoli, onorevole Pirina. Appuntamento a domani, linea Giornale Radio. Yeah.